Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Erano una soglia, psicologica e non solo, molto importante. 20 milioni di visitatori era il target che Expo 2015 si era dato prima dell'apertura dell'esposizione milanese, in un momento in cui c'erano molti modelli di riferimento, ma mancava la prova sul campo di quello che sarebbe accaduto nel sito di Europero. Ora il fatidico numero è stato ufficialmente raggiunto e lo staff di Expo ribadisce la linea delle ultime settimane. Una volta messa da parte la preoccupazione per i numeri, è più utile... Questa mattina, come avete sentito già dall'annuncio al giornale radio, voglio parlare del fenomeno Expo. Voglio parlare con le persone che ci sono andate, quelli che hanno sentito il bisogno profondo e insopprimibile da qualunque parte del paese loro si trovassero di prendere un treno e muoversi con tutta la famigliola, con i soldini magari contati in tasca, perché io ho visitato più volte Expo, ho visto il visitatore medio è una persona che lavora, una famiglia con i problemi di tutte le famiglie d'Italia. Sono i privilegiati che vanno lì perché tanto è una delle tante cose che fanno, è gente che ha investito il budget della lussuria di mesi per andare a Expo, e quando vanno lì cosa fanno? Passeggiano, girano, fanno ore di fila. Ieri sono state 8 ore di fila su certi padiglioni. Il treno da Bologna, dove prendere io, è stato rallentato perché a Milano c'era tantissima gente che doveva montare. C'è qualcosa di più che il semplice desiderio di andare a guardare un evento in cui viene esposto del cibo. Se un italiano volesse vedere il cibo, fa una passeggiata al supermercato. No, c'era un input, c'era qualcosa di generale, c'è una sorta di bisogno collettivo di partecipare a un evento, un po' come gli anni santi, un po' come i giubilei, un po' come quei pellegrinaggi che facevano gli uomini del passato, perché una volta almeno nella vita bisognava andare nel luogo santo e lì emendarsi. Di cosa vi siete emendati? Cosa avete scontato? Quale catarsi avete avuto passando anche voi per Expo? 800 24 0024. A tra un istante. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Merito il padiglione dell'Italia e Spagna. L'Italia merita. Abbiamo visto il Marocco e il Qatar e mi sono piaciuti tutti e due. In Qatar c'è un bellissimo albero della vita. E il prossimo padiglione? Italia, speriamo di farcela in fretta. Stiamo cercando assolutamente no. Il padiglione della Svizzera. Come vi sembra finora Expo? Molto bello, noi siamo riusciti a vedere soltanto quello nostro italiano da stamattina, siamo usciti adesso, molto soddisfatti. It's very nice. È tutto molto bello, maestoso, molto internazionale. 800 24 0024, voglio sapere perché siete stati a Expo. Ma voglio saperlo perché mi interessa, perché sono curioso, voglio capire quali sono i movimenti, i meccanismi. È stata fatta una bella campagna di promozione, è stato reso un evento indispensabile, come dice oggi il sociologo De Masi sulla Stampa, disposti a qualsiasi cosa per dire di esserci stati. Un evento irrinunciabile, quindi una sorta di gadget sociale irrinunciabile, non si può fare a meno. Sembrava di assistere, però spalmato in mesi, non in una sola nottata, alle fine che si fanno davanti agli Apple Store quando esce l'ultimo modello di iPhone. È chiaro, porti a casa un iPhone, quindi ce l'hai, lo mostri, è un oggetto abbastanza duraturo, pur essendo transeunte nella sua possibilità di essere sostituito dal modello che poi lo verrà dopo di lui. Ma in questo caso cosa vi portate da Expo? Oltre la sacchetta di cartoncino che ho visto buttata dentro il Frecciarossa ieri con gli ultimi panini e gli avanzi del pranzetto al sacco con i vostri figli. Giuliana, buongiorno. Buongiorno. Sintetica, lei è stata Expo? Sì, siamo stati quest'estate, è stato il regalo di compleanno di mia figlia Camilla, che ha compiuto 9 anni e ci ha espressamente chiesto come regalo di portarla all'Expo con tutta la famiglia e i 3 fratelli. Mi piace la cosa, perché una bambina di 9 anni chiede di essere portata in un luogo in cui viene esposta a qualcosa che rappresenta la sua contemporaneità, è bello. Ma sua figlia mi ha chiesto: mamma, portami a vedere una mostra d'arte, una manifestazione, una qualsiasi cosa che accade nella nostra città. No, specificamente della nostra città no, ma è una molto appassionata di musei. Ma a noi è capitato più volte di andare negli Stati Uniti, in particolare in California, dove ci sono per i bambini questa attrattiva delle giostre, dei parchi di divertimento originali del 1906, del 1912, in occasioni di fiere, di queste cose, e probabilmente la sua curiosità era proprio legata al fatto di fammi vedere se c'è qualcosa di così importante che poi resterà addirittura per centinaia d'anni. Allora Giuliana, lei ci ha dato già un elemento importante della mente di un bambino, che è quella più ricettiva, che coglie alcuni messaggi subliminali che noi magari vogliamo per forza sviscerare o razionalizzare. Expo era un grande parco a tema, aveva desiderio di vedere il più grande, il più celebrato, il più importante parco a tema in cui viene rappresentato il mondo, perché sua figlia aveva chiesto il passaporto, avrà messo i bollini padiglione per padiglione per fare questa sorta di giro certificato attraverso tutto il mondo, o sbaglio? Esatto, esatto. Ovviamente affascinati dal cibo, ognuno dei miei quattro figli ha voluto pranzare in uno stand diverso, ma proprio era l'evento e la possibilità di averlo vicino a casa, perché noi mezz'ora eravamo arrivati, quindi per loro era sicuramente qualcosa da dover vedere coi propri occhi. Grazie Giuliana. Dario, buongiorno. Buongiorno. No, diciamo che è riduttivo dire che l'Expo si va per vedere il cibo che vede al supermercato. L'Expo è una fantastica opera architettonica che dove lei vede non so, lei va a New York, va anche a vedere le Empire Building perché è un'opera architettonica, mi ha detto, non so, non è solo. Ma c'è stato lei? C'è stato? Certamente, due volte. Ma anch'io più volte, sì. Ma no, infatti no, è bello, si vede dei bei padiglioni, bellissimo. Bellissimi, è più bello fuori che dentro. Io non faccio 5 ore di coda per entrare, ma vado per vedere delle cose bellissime. Allora, lei dà ancora un'altra lettura. Lei va per vedere i padiglioni come agli inizi del secolo passato si andava a Parigi e si vedeva la Tour Eiffel e sembrava il segno più imponente del futuro, questa torre di ferro che saliva verso il cielo, era la tecnologia così rappresentata, la sfida verso il secolo passato che moriva e il secolo nuovo che si illuminava, la corrente elettrica, la luce. Lei vede quei padiglioni e cosa le rappresentano, cosa le hanno raccontato del mondo che lei non conosceva? Ma io non sono un grande esperto d'arte, di architettura. No, ma lei di arte, cosa ha sentito lei? Delle sensazioni bellissime, perché ho visto i padiglioni bellissimi, poi ho visto anche il Ghana che non avevo mai visto, delle altre cose più piccole, non mi metto in coda a fare 5 ore per vedere il Giappone, non me ne frega niente, anche perché il Giappone lo conosco, punto. Ma secondo me solo passeggiare e vedere queste bellissime opere architettoniche è una cosa che rientra. Ribadisce anche lei l'idea del parco a tema, era un grande parco a tema in cui veniva rappresentato il mondo. Negli anni 50, non so, mi sembra forse nelle Marche, in Emilia Romagna, adesso dico a braccio, c'era la piccola Italia, ci andavano allora in viaggio di nozze quando non si andava alle Seychelles, era una cosa molto coatta ancora, cioè, c'era l'Italia rappresentata, ci camminava dentro a piedi con tutte le regioni, le città, l'Italia in miniatura, ecco, l'Italia in miniatura. C'è ancora dove vicino, sta? A Bergamo, vicino a Bergamo, che oggi fa ridere, ma allora era una cosa fantastica, si faceva la foto con la Ferrania. Non è proprio così, non è proprio l'Italia in miniatura, qui ti dà un'idea di l'architettura cosa può offrire. È il mondo in miniatura del nuovo millennio, l'Italia in miniatura andava bene per l'Italia del boom, vedersela tutta lì piccola, la gente, gli sposini passeggiavano, facevano la foto davanti alla gondola Venezia, davanti alla torre di Pisa, fatta in cemento armato, non so cos'era, in gesso negli anni 50, oggi è il mondo in miniatura. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io abito lì a 500 metri dalla fiera. Non sono fatto due tenere ingressi serali. Io penso di essere un italiano medio, ma se ci crede che non ci ho capito niente. Non ho ancora capito il motivo per cui l'hanno fatto. Beh, lei è arrabbiato perché c'era sotto casa, gli hanno fatto casino sotto casa. Non è un campione significativo. No, al contrario, noi che abitiamo proprio lì nella zona, traffico non ce n'è per niente. C'è sulle tangenziali, ok, ma dentro nei paesi di Pero, no? Mazzo di Ro, non ci. Ma lei guardava anche i cantieri mentre la costruivano? Quel poco che ho fatto, sì, forse è più interessante guardarla da fuori che guardarla da fuori. Lei mi sta elencando un perfetto esempio di filosofia omarellica. Lei era più interessante la fabbrica, il cantiere, una volta fatta, è chiaro, dal suo punto di vista non ci trova nulla. Speriamo che adesso la demolizione del cantiere sia altrettanto interessante. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire dicendo che è interessante andare all'Expo, sono stato già due volte, andrò la terza la settimana prossima. proprio per vedere com'è la concezione del mondo al di fuori dell'Italia. Io ho visto il padiglione Italia, ho visto quello del Giappone, Emirati Arabi, Malesia, ne ho visti tantissimi. E concordo con quello che ho detto prima l'altro ascoltatore, è forse più bello fuori che dentro, proprio per una questione di interpretazione dell'architettura nel mondo e una diversa interpretazione proprio del mondo e della sopravvivenza. Ecco, lei ha visitato anche dentro i padiglioni, ha fatto qualche fila? Perché... Sì, io ne ho visti parecchi, fortunatamente, anche perché ho un ingresso per invalidi, quindi ho fatto poca coda, sono riuscito a entrare dappertutto. Diciamo che quelli che mi hanno colpito più di tutti sono Giappone, proprio per il messaggio che mi sembra più incentrato con Expo, ecco. Perché l'Italia giustamente presenta un po' anche l'Italia, presenta un po' la sua storia, la sua cultura, e giustamente è il paese ospitante, quindi deve fare questo. Con l'albero della vita. Con l'albero della vita. Le è piaciuto lo spettacolino magnifico. Dell'albero della vita? È magnifico, anche perché cambia ogni ora e quindi... Tutte le luci, colori, le canzoni napoletane, tutti i giochi d'acqua, bellissimi. È stupendo ed è fatto in maniera veramente... Non si staccherebbe mai da quella bella cosa. Sì, sembra una bella giostra che fa tornare un po' bambini. Anche perché è molto suggestiva questa grandezza, questi colori, questa interpretazione proprio che dà il senso proprio della vita che nasce e che esplode, che sboccia. Io poi ho avuto fortuna, nel momento andavo io allo spettacolo, c'era, non so se Bocelli o Pavarotti, non l'ho riconosciuto perché c'era un sacco di gente. Pavarotti, e veniva questa musica con tutta l'acqua colorata, bianca, rossa e verde, tutte le lucine. È stupendo. Io mi sono sentito veramente la pelle d'oca. Grazie. Laura, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei? Ho chiamato... Sì, ascolto, lei è andata all'Expo, sì. Sono andata all'Expo, sì, sono andata ad agosto. No, perché di 20 di milioni di persone, io so che sicuramente stamattina avevo tutti gli ascoltatori che c'erano andati. Lei con chi è andata? Allora, sono andata con mio marito e uno dei miei figli, avevo preso da dove? Biglietti. Da dove è venuta? Abito vicino. Tutti vicino? Voglio qualcuno che è partito da Canicattì. Ecco, per andare. Ecco, la sua domanda è... Per voi è come andare sotto casa, che problema è? Allora, è comunque un viaggio abbastanza, se uno decide di andare con i mezzi ci vuole abbastanza tempo, quindi ho voluto fare l'esperienza sia con i mezzi che con l'auto, e ad agosto con l'auto era meglio rispetto che con i mezzi. No, perché sennò mi viene il sospetto che Expo ha spopolato il Bergamasco e il limitrofo, perché tutti gli lì mi stanno chiamando, vorrei qualcuno che ha fatto un viaggio più lungo. Allora, provincia di Lecco, provincia di Milano, tantissimi, addirittura c'è chi ha fatto il biglietto open, quindi è andato anche 10, 15, 20 volte. Ma fare che poi? Quando andava cosa faceva? Allora, mi sono accorta col contapassi che ho fatto 20 chilometri all'Expo, quindi tantissimi. Passeggiata di salute. Una passeggiata di salute, esatto. Ma poi si è buttata in qualche padiglione e si è messa a mangiare? Ne ho fatti tanti di padiglioni. Ho mangiato in 4 padiglioni, a dire la verità, ho aspettato anche cena, ho cenato allo spagnolo. Come ha cenato allo spagnolo? Che avrei qualcosa da dire. Ecco, dico abbastanza bene. No, io schifosamente, devo dire la verità. Ecco, io devo dire abbastanza perché poi fortunatamente ho fatto una pericena, quindi non proprio la cena, e devo dire che la paella non c'entrava assolutamente. No, solamente era un risottino bollito con dentro delle cozze che galleggiavano. Condivido. Eh no, perché vanno dette le cose. Mi è piaciuto tantissimo. Perché anche l'abbiamo pagato caro, non è che ce lo regalavano. Ah, ecco, esattamente. Invece in Austria ho fatto la merenda, ed è stata molto sopra le aspettative, molto bello il padiglione, semplicissimo, verde, sugli uffici, diciamo, con il bosco nell'ufficio. Fantastico, ho visto il padiglione del Sud Tirolo, una gita ai sudtirolesi che aveva fatto una bella fila per mangiarsi una fetta di strudel, era divertente. Ecco, no, per quello no. Mi è piaciuto. Comunque le è piaciuto, ma era a cosa assomigliava? Le faccio degli esempi. A una sagra di paese. A un parco giochi, è il parco a tema. Lo lascerei aperto perché è l'aspetto ludico che tutti hanno. Finora nella prima parte della trasmissione è venuto fuori che è l'aspetto ludico. È un parco a tema, è Luna Park. Mentre culturalmente Israele, con il filmato, con il fatto di quello che hanno creato in un paese così piccolo. E è piaciuto tantissimo anche ai miei figli che studiano a scuola, quindi hanno detto: caspita, mamma, questo ci ha dato qualcosa in più. Sì, hanno quindi fatto vedere tutto, c'erano tutte le piantagioni verticali, cose fantastiche. Fermiamoci un attimo, voglio sapere poi nella seconda parte cos'altro. Il parco giochi l'abbiamo detto, ci siamo andati perché è un grande parco giochi. Vediamo tra un po' se troviamo altre motivazioni. Qual è la molla mistica per cui folle di pellegrini si sono spostati verso l'albero della vita e lì hanno adorato il loro Dio, che non sa quale sia. Tra poco. Energia. Ogni atleta sa quanto è importante gestirla. Troppa e sarai pesante. Poca e mangerai polvere. Sprecala e sarai fuori. La tua azienda è un organismo perfetto. L'efficienza è il suo equilibrio ideale. Repower, il tuo nuovo personal trainer dell'energia. Repower, l'energia che ti serve. Nascono i fondi a chilometro zero, dal gestore al risparmiatore. Investi i tuoi risparmi al meglio. Farus SICAV ti aspetta in Borsa Italiana. Messaggio promozionale che non costituisce consulenza finanziaria né offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Prima dell'adesione, leggere il prospetto, il key del documento per la quotazione, depositati in Consob e disponibili su farusfunds.com e borsaitaliana.it. Host Milano, Equipment Coffee and Food. Entra nel più grande evento professionale dedicato ai nuovi trend dell'ospitalità. Il Salone Internazionale per l'Oreca e il Retail ti aspetta con oltre 2.000 aziende leader provenienti da 50 paesi, centinaia di eventi e performance di chef stellati. Host Milano, dal 23 al 27 ottobre a Fiera Milano. Info su host.fieramilano.it, in partnership con Radio 24. Nuova giacca? Nuova auto? Nuovo smartphone? Fa qualcosa che trasformi veramente la tua vita. Impara l'inglese. Diventa internazionale. Schenker Yourself. Schenker. Design your international self. Vai su schenker.com. Sono Elisa e analizzo la situazione macroeconomica del paese. Elaboro scelte consultando le banche dati, risolvo equazioni in un secondo. Un tempo vi avrei detto che faccio la commercialista, ma con Vodafone Box ho scoperto un nuovo modo di fare il mio lavoro. Vodafone Box ti cambia la professione. Se hai la partita IVA, scegli fra mobile e internet fissa con 4G e fibra in un'unica soluzione. Scegli il tuo iBox a partire da €29,90 al mese. Fermati in un negozio Vodafone o chiama 800 208 208. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buona partenza di settimana per le borse europee, particolarmente vivace la seduta di Francoforte, che sta guadagnando quasi un punto, incrementando i guadagni dall'inizio della seduta, più 0,4%, Parigi più indecisa, Londra che è negativa in questo momento e scende dello 0,18%, Milano positiva più 0,64%. Il focus è sempre naturalmente concentrato sulle politiche monetarie delle banche centrali. Questa settimana si riunisce la Banca Centrale Europea ed è attesa la conferenza stampa di Mario Draghi. Exor e Fiat, i migliori titoli di Piazza Affari, guadagnano oltre 2 punti, 2,5 punti, in attesa della quotazione in settimana a Wall Street di Ferrari. Bene anche Mediobanca, più 2 Prismian, più 1,91, Luxottica più 1,51, abbiamo un rialzo di 1,5 punti anche per Enel Green Power, che ha ricevuto stamattina un giudizio positivo dagli analisti di Citi, Buzzi Unicem e Azimut, che pure guadagnano circa 1,5 punti. In difficoltà Tenaris, sta perdendo 1 punto, Jux Neta Porté prese di profitto, il titolo è corso molto nelle ultime sedute, meno 0,6%, CNH meno 0,4%, euro a 1,13,16 sul dollaro e tutti i mercati tornano con effetto giorno. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Melog, cronache meridiane. È di almeno 4 ore l'attesa per visitare il padiglione del Giappone all'Expo di Milano. Questo in media è ciò che avviene nei weekend, quando le migliaia di visitatori si mettono pazientemente in coda pur di vedere il padiglione composto da 17.000 pezzi di legno incastrati tra loro, in modo da lasciar penetrare la luce solare. Il percorso inizia con una videoproiezione per entrare nel tema del padiglione, diversità armoniosa. Si entra poi in uno spazio con pareti a specchio su cui vengono proiettate immagini e luci che ripercorrono le stagioni sensibili ai movimenti delle persone. Il percorso finisce con il ristorante del futuro, con tanti tavoli dove i visitatori possono raggrupparsi e assaporare, si fa per dire, un pranzo virtuale. Il cibo infatti appare sul piano del tavolo con una spiegazione delle sue caratteristiche, ma il visitatore resta a bocca asciutta. Sono dei geni, la gente fa 8 ore di fila, entra nel tunnel degli specchi che c'era anche a Luna Park quando ero piccolo io, paga per mangiare, gli fanno vedere un monitor col cibo sopra e mangia il cibo virtuale. Beh, devo dire che è veramente un aspetto assolutamente geniale quello che è stato creato attorno a Expo, ma che io non voglio fare il critico o rancoroso, a me è divertito molto, mi diverte, solo che io devo studiare i fenomeni. Io mi sono appassionato quando morì Papa Wojtyła della lunga fila che mi passava sotto casa, giorni e giorni di gente che andava a vedere il cadavere del Papa, qualcosa di medievale, di antico. I pellegrini andavano a inzuppare un fazzoletto nel liquame del corpo santo perché lo portavano a casa una reliquia, perché si faceva una foto digitale al monitor in cui era digitalizzato il cadavere del Papa e tornò a casa felice lo stesso. Sta cambiando la transumanza verso i luoghi mistici, sta cambiando altri aspetti. A Expo c'era qualcosa che non sapevamo, non conoscevamo. Emergerà una nuova divinità probabilmente da Expo, se ha mosso tante persone. Io penso nemmeno i pellegrinaggi religiosi hanno mosso tante persone, nemmeno la politica ha mosso tante persone, nulla ha mosso tante persone. A Roma c'è un istituto di cultura giapponese, un posto fantastico. C'è un giardino zen dentro che quando è il momento della fioritura dei ciliegi è uno spettacolo che soltanto a Kyoto puoi vedere uguale, capito? Qui c'è tutto del Giappone, insegnano la lingua giapponese, puoi parlare con giapponesi, vedi rappresentato il Giappone. Non ho mai visto una fila davanti all'istituto di cultura giapponese a Roma. Marcello, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Io volevo dire che sono andato all'Expo e ho portato con me 59 persone. E chi erano? Amici di famiglia? Erano sì, amici, paesani. Siamo partiti da Colonna, in provincia di Roma, e siamo andati all'Expo. Con che siete andati? Col torpedone, col pullman? Con un pullman, sì. Lei ha organizzato gita all'Expo da Colonna? Sì, signore. E io personalmente, io e anche i miei amici. Quanto è costato il gioco? È costato 3 giorni, con albergo compreso e biglietti, 195 euro. Poi siccome noi eravamo un'associazione, ci avete dormito 3 giorni con 195 euro, pagato 35 euro di entrata. Dove avete dormito? Dentro il torpedone? Abbiamo dormito a Re, un paese ai confini con la Lombardia e il Piemonte. A Re. Da Colonna a Re. E poi cosa avete? Sì, una volta Expo che avete fatto? In e 59? Ci siamo divisi, ognuno è andato per proprio conto e abbiamo visitato i diversi padiglioni. Io personalmente mi sono preso un'arrabbiatura all'ingresso perché c'era una fila di 40 minuti che io ho trovato assurda. Beh, non era e tanto. Quindi lì mi sono maledetto, ho detto ma che diamine, se l'avessimo fatto a Roma noi un affare del genere con 40 minuti di fila ci avrebbero crocifissi. Ma lasciamo perdere, Roma è la città delle file, io ci abito, non sì, è che... io pure. Roma si fa la fila per tutto, quindi... però guardi, poi quando siamo entrati io ho visto la grandezza di questo lavoro. E lì ho detto, io sono contento che l'Italia sa fare queste cose. Proprio la soddisfazione di essere italiano. Io ho visto la grandiosità dei lavori, più che non altro, sì, i padiglioni. Anch'io ho preso quella mezza fregatura al padiglione spagnolo. Eh sì, la paia, devo dire che ormai è diventato la comune. È orrenda, per sì. Carità. Ci pensa, però giusto, uno lì sa, ci pensa, dice, mi capita sta cosa. Io devo dire, devono migliorarla, la grandezza dell'Italia, nonostante tutto io sono contento di aver allora, secondo questa... elemento, questo ascoltatore c'è un secondo elemento. Primo, ci si va per una motivazione tipo ludico, è un parco a tema, un parco giochi, è il sostituto di tutte le varie rappresentazioni dell'immaginario che pensiamo Gardaland, Disneyland, Euro Disney, via dicendo. Si va a Expo, in cui c'è la grande melanzana, l'enorme cotechino, la forma di formaggio gigante, insomma è una sorta di pantagruelica allucinazione. Poi ci si va per orgoglio nazionale. L'orgoglio nazionale ha trovato un suo catalizzatore nell'Expo. Questo è l'acaro che mi va a quest'ora sempre attraverso. Tony, buongiorno, intanto me. Buongiorno Nicoletti, le do un altro motivo, ci si va perché ci vuole andare la moglie. Beh, questo vale per gli schiavi delle mogli, non è che tutto il mondo, esatto, è così. La maggior parte, secondo me. Sono le donne trainanti, diciamo, c'è un input di tipo femminile. Io ho trovato una forte analogia con gli outlet. Per me l'Expo è un grandissimo luogo non luogo. Ho trovato l'esposizione abbastanza finta, ecco, diciamo. Beh, l'esposizione è una rappresentazione, sempre un simulacro. Se le vede ci sono tutte quelle belle rappresentazioni fatte da un grande scenografo di cinema italiano, in cui c'è il banco della frutta, il banco del pesce, tutto fatto di polistirolo e di plastica. Più finto di così si muore. sembra il presepe napoletano, però la gente andava lì, guardava e fotografava la zucca di plastica. Io ho fatto la foto della porcilaia con i maiali di plastica, sono nato nelle porcilaie, da bambino andavo a dar da mangiare il pastone ai maiali, quindi no, è qualcosa che fa parte della mia natura. Ho ritrovato i maialini della mia infanzia e poi dicevo: mamma, quale mangiamo, questo, quest'altro, quale scanni papà, quest'altro, e poi eravamo tutti felici. Lì erano tutti di plastica, la porcilaia di plastica, mancava la parte essenziale, la porcilaia si annunciava con un alone olfattivo da 150 metri, erano maiali di plastica, la gente era contenta. Rosalia, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto le vorrei esprimere l'apprezzamento per le sue trasmissioni che seguo sempre con molto interesse e in particolare per la sua ironia che vabbè, trovo guardi, veramente non c'è nulla che ammazzi l'ironia come il complimento all'ironia, non lo faccia mai più, vada avanti. Vabbè, visto che è la prima volta che intervengo alla radio, io mi sono presa questa libertà. Ci conceda allora, la sua verginità radiofonica e vada al punto. Vado al punto, io sono di Roma e sono tra quelle entusiaste dell'Expo, mentre ovviamente ho visto tutto ciò a cui lei si riferiva, zucche, maiali eccetera, io li avrei evitati, sono pienamente d'accordo. E ci avrei messi veri, a me la gente sente l'odore di maiale, sennò sì, pensa appunto che... insomma, pure non ci metti niente, metti che il parmacotto e tutto quello che c'è non è esatto quello. Ecco, l'avrei, sono d'accordo con lei, quella era l'unica nota stonata che io ho trovato nell'organizzazione. Lei è entrata in dei padiglioni, Rosalia? Sì, io sono stata una fortunata perché essendo over 65, peraltro non ho fatto file lunghissime. Guardi, la prima volta, prima un signore ha detto per fortuna sono disabile e non ho fatto la fila, lei dice per fortuna sono vecchia e non ho fatto la fila. No, diciamo, c'è un altro elemento, fortuna, chi si sente normalmente... per fortuna non lo dico, ma visto che sono over 65 ogni tanto se ho un privilegio me lo sfrutto. Ecco. Sì, ma anche il terzo elemento è questo, le categorie sentono... emarginate, svantaggiate in una società dinamica, a Expo primeggiano, vedono i giovani gagliardi a fare la fila di 8 ore e lei con il suo tutore cammina, va avanti fingendo naturalmente di essere zoppicante e va avanti. È vero, io ho trovato questo veramente scorretto e purtroppo no, ma è giusto, ma che scherzo, ma finalmente un posto in cui dà una corsia di passaggio privilegiato alle persone che hanno dei limiti, ma sta scherzando. Delle ragazze che entravano in gruppo con una che zoppicava, purtroppo era la corsa la vecchia, chi c'ha una nonna un po' malandata la portava nel gruppo, poi la buttavano in un cassonetto, però si entrava dentro e quello è normale. Comunque, però vedi che questo è un privilegio. Sì. Tutte si vergognavano dell'anziano in casa, adesso chi c'ha l'anziano in casa c'ha l'entrata privilegiata Expo. Lo spingevano sulla carrozzella. Sì, infatti non ho mai visto tanti anziani con dei ragazzi come Expo. Che ha trovato dentro il padiglione? Che c'era dentro? Dunque, quello che i padiglioni, ovviamente quelli super noti, tipo il Kazakistan, il Giappone, da un punto di vista alimentare, perché questo era lo scopo che invece secondo me è stato un pochino fuorviato a favore dell'impatto visivo, delle emozioni. Cosa c'era? Perché il Kazakistan è stato famoso in Italia, nessuno sapeva dell'esistenza del Kazakistan in Italia. Il Kazakistan, io vi ho file di Umarel che venivano da chissà dove, cercavano il Kazakistan, vogliamo andare nel... Che c'era dentro sto Kazakistan? Era bellissimo. Ma che c'era da mangiare? Che si mangiava? No, non si mangia niente. Ah, non c'era il cibo kazako, anche lo era. Ah, sì, probabilmente c'era, ma io ho mangiato al ristorante giapponese perché adoro. Non si mangiava un Kazakistan, dice il mio istruttore. No, questo non glielo so dire, sinceramente, perché non l'ho nemmeno cercato. Perché era un orario in cui ancora non dovevamo mangiare, quindi insomma abbiamo proceduto senza controllare. Ma non parte l'Expo da una sorta di rappresentazione della cultura attraverso il cibo? Non era quello il tema? Esatto, trovo che anche il padiglione Italia sia stato un pochettino superficiale da questo punto di vista, mentre altri, come per esempio la Germania, erano organizzati da questo punto di vista in maniera meravigliosa, e trovo che specialmente per i giovani, gli studenti, i bambini, sia stato il padiglione perfetto, quello che maggiormente ha dato informazioni su quella che è l'alimentazione e che cosa. Ma non è il fatto che dove c'è più coda la gente si accoda, perché se ci vanno tanti vuol dire che è più bello. Sì, purtroppo è così, mentre invece ce ne stavano altri minori. Non quindi basterebbe che uno, se per assurdo non è così, ma mi dice una voce informata che in questo momento non posso far ascoltare, che accade in certe librerie quando ci sono gli eventi, fanno far la coda, cioè si fermano alla cassa e perdono un sacco di tempo, la gente vede una coda enorme, dice cosa succede oggi alla libreria, che so, Feltrinelli, andiamo a vedere che c'è, un grande evento, in realtà non c'è una mazza, è che fermano la gente alla cassa, si riempie e la folla tira folla, è fatta così, quindi chi magari i kazaki sono stati i primi che hanno detto mettiamo un tipico cavallo di Frisia kazako davanti all'entrata e quindi nessuno passa e dice ma andiamo tutti al Kazakistan, e se sparsa questa voce dalle Alpi alle piramidi di andare al Kazakistan, che non c'è un Kazakistan chiaramente. Ci fermiamo un istante, tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ma secondo me è stata molto bella, essendoci venuta 4 volte. Qual è il padiglione che le è piaciuto di più? Per i bambini penso l'Unione Europea, perché con il video è molto interessante, l'albero della vita. Siamo appena stati al Giappone, è molto bello nonostante la fila gigantesca. Per quanto riguarda le esposizioni, tutto quanto veramente veramente molto bello. Ho visitato Germania, Kazakistan, il mio preferito, quello più bello secondo il mio giudizio. E poi non ho visitato talmente tanti che non mi ricordo, la Moldavia, la Romania. Volevo visitare il padiglione Italia, ma per questioni di tempo non riesco. Sono passati gli anni felici o infelici o biechi o retrogradi in cui gli italiani emigravano in massa dalle fabbriche, dalle sudate officine, andare verso la Romania, la Moldavia, la Bulgaria e non certo a vedere prodotti culinari o qualcosa del genere. Tarcisio, buongiorno. Buongiorno, io sono stato all'Expo e non è che mi sia piaciuto molto, io sono di Milano. Comunque, diciamo, io siccome odio le code, lì c'era da fare molte code, però mi ha colpito in particolare una cosa, che nonostante appunto tutte queste code, vedevo la gente tranquilla e educata. Certo, era felice. Come, cioè una media di educazione molto più alta che nei posti normali dove si... Altro elemento, perché... allora la gente quando sta in un luogo in cui è felice, soddisfatta, che ha raggiunto l'apice delle sue attese, è un posto che dà anche evidenza, dà lustro, dà esistenza. Sono finalmente Expo, potrò tornare a casa e dire sono stato Expo, esattamente come quando andavano a Santiago di Compostela o quando andavano a compiere una eroica campagna di guerra. Il reduce tornava, era considerato un eroe. È un fenomeno recente quello dei reduci che si beccano gli sputi in faccia. Quindi diciamo, l'evento epico dei nostri anni è stato Expo, non c'è stato altro che Expo, è la cosa che ha dato più possibilità di dare materia di racconto alle generazioni che verranno. Stefano. Sì, ecco, buongiorno. Dunque, il mio giudizio sull'Expo ci sono stato fortunatamente in un giorno di scarso traffico. È della qualità che mi ricordo c'era nelle ricerche che si facevano alle scuole medie, diciamo, nei padiglioni. Però non è di questo che volevo parlare, ma è delle code, appunto, perché in effetti la gente è rilassata. Io credo che la coda in sé, la folla, la ressa in sé diventi proprio un elemento, un valore aggiunto, un elemento, come dice lei, sufficiente a, perché ci si sente anche dentro all'evento, quindi un po' dentro la storia. Però mi scusi, poi non è che la voglio... Dunque, innanzitutto, un evento ha senso se c'è una prova perigliosa, pericolosa per passarci. Deve passare attraverso il cerchio di fuoco, attraversare la buia foresta, sconfiggere dei nemici, se no che senso ha raggiungere poi il luogo della perfezione che è Expo? Poi la coda, quando la coda sono 4-5 ore, la coda si socializza, la gente si scambiava i panini, si scambiava gli indirizzi, le amicizie su Facebook. Quante amicizie, quanti amori e quanti adulteri saranno nati durante le code Expo? Ma adulteri pochi, perché la media era sui 60-70 anni, però ancora, diciamo, ancora si conservano magari dei ricordi di bollori passati. Paola, buongiorno. Sono qui. Lei è andata a Expo? Io sono andata con una coppia di amici in camper e quindi è in stato tre bello eravate per me. In tre? No, eravamo in quattro. Ah, in quattro. Due coppie, un'altra coppia di amici. E quindi avevamo addirittura acquistato i biglietti ancora ad aprile, quindi era una cosa sentita. Per me è un evento unico, addirittura nell'84 ero andata a New Orleans, quindi per me era sicuramente una cosa da vedere. Solo che non ho voluto fare le file, perché è una sagra elegante. E come ha fatto a non fare la fila? No, non ho fatto fila perché non ho visto gli interni, però mi è piaciuta tutta la parte architettonica. Ah, lei ha passeggiato per il decumano? Per il decumano, già quello mi ha soddisfatto. Io sono stata là la domenica pomeriggio, la sera e tutto il lunedì, pensando che lunedì ci fosse poca gente, ma alla mattina appena aperti sono riuscita a vedere il drago, quello cinese, quello a scaglie, e non sono riuscita a vedere altro, perché poi sono andato un po' più avanti, Emirati Arabi, 3 ore e mezza, in ogni modo mi è piaciuta lo stesso, è un evento così. Quindi per avere l'indulgenza, così, per avere l'indulgenza è sufficiente andare a passeggiare, non occorre fare la fila entrare. No, ma infatti a me è piaciuto lo stesso, cioè, non sono riuscita a vedere dentro, ma dal decumano si sono viste, e c'è ancora fino a fine mese, tutte queste strutture architettoniche straordinarie, secondo me. Quindi, ma per questo hanno messo tutti quei divanetti dentro il decumano, si stravaccavano tutti i signori e signore, stanno lì. È come vedere un grande passeggio. Ti passano avanti quelli che hanno voglia di fare le file, e voi vi accontentavate di vedere fuori, anche perché entrare poi si è visto. Si vedono dei monitor con delle cose che magari fra qualche mese lo vedremo anche in internet. Thomas, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono stato all'Expo, vengo da Treviso, sono stato all'Expo ancora ad agosto, quindi nei periodi un po' di picco. Però sono rimasto sorpreso per l'organizzazione all'interno, la pulizia, la cortesia anche degli stessi organizzatori, non solo delle persone dei padiglioni. Io sono stato lì con mia figlia e con mio fratello e abbiamo passato una giornata incredibilmente. Tanto che ho detto, ma l'Italia non può essere solo quello dell'Expo, perché non si può portare anche fuori questo tipo di cortesia, questo tipo di organizzazione? Mi spiega una cosa, Thomas, faccio una domanda. Dica. In Italia un po' è terrorismo dei giornalisti, dei miei colleghi, un po' è vero, la gente ha paura di uscire la sera, va in un locale e c'è paura che ti diano fastidio, soprattutto donne sole in molti luoghi rischiano come minimo di essere molestate, se non sì, di peggio. Come a Expo non è mai successo niente, pieno di gente, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, anziani, non c'era quell'idea che qualcuno potesse essere in pericolo, anche soltanto di essere infastidito, come mai? Ma guardi, non glielo so dire, guardi, io ricordo una cosa e ricorderò sempre, dopo lo spettacolo dell'albero della vita mia figlia era stanca, ha detto torniamo da mio fratello che abita appunto a Milano, ci ha ospitati lui, uscendo ho visto migliaia di persone entrare dentro, ho visto migliaia di persone felici, anche se stanche, ma che continuano a visitare i padiglioni. Quindi è molto chiaro, quello era una sorta di circolo sacro in cui dentro non poteva accadere niente di male, perché era come a un'anticamera del paradiso. Grazie, alla prossima.